Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che ascolterete tra poco sarà la nostra 311esima trasmissione. La scaletta di oggi prevede la lettura di alcune considerazioni fatte in modo preciso e puntuale dalla nostra compagna Deborah che, abitando fuori Roma, ci ha inviato un file sonoro. Nel suo contributo Deborah prende in esame il convegno a Difendere la famiglia per difendere la comunità, che si è svolto a Milano il 17 gennaio scorso, che, come immagino molte sapranno, ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia e la possibilità di apporre all'evento il logo Expo 2015. La natura dell'evento e l'utilizzo del logo Expo hanno provocato molte critiche. Attraverso il contributo di Deborah intendiamo approfondire ancora di più le dinamiche che questa iniziativa sottendeva. Dopo una breve pausa musicale partirà quindi l'intervento di Deborah. Allora ascoltiamo insieme la grande Aretha Franklin con il brano Respect. Buon ascolto. Buonasera a tutte da Deborah, la vostra corrispondente da Milano, spesso latitante ma sempre più che militante. Questa sera vorrei parlarvi di un convegno che ha scatenato tantissime polemiche, ma a causa del pressapochismo dei mezzi di informazione italiani, le polemiche non sono andate al di là dei motivi più apparenti, lasciando nascosti i pericolosi risvolti dei contenuti, degli organizzatori e dei partecipanti a questo evento. Sto parlando del convegno Difendere la famiglia per difendere la comunità, che si è tenuto a Milano il 17 gennaio, con il patrocinio della leghista Regione Lombardia e logo di Expo 2015. Ecco, eliminiamo subito il principale argomento di discussione dei media italiani, che hanno, peraltro giustamente dal punto di vista concettuale, polemizzato moltissimo rispetto all'utilizzo di questo logo. In realtà, mentre il Comune di Milano chiede sistematicamente il permesso, la Regione Lombardia lo mette in automatico su tutti gli eventi 2015, in quanto, per un ipotetico accordo di brand identity, ritiene di aver avuto il permesso per questo automatismo dalla società Expo. Ovviamente quest'ultima, a fronte del caos emerso a causa di questo convegno, si è dichiarata contraria a questo automatismo e di brand identity sembra non abbia mai sentito parlare. Fatto sta che dopo ripetuti scambi di fioretto sui media, durante i quali la società Expo ha chiesto blandamente di rimuovere il suo logo da questo evento, ha poi fatto marcia indietro, dicendo che Maroni ha assicurato personalmente che nel suo intervento finale al convegno sottolineerà che l'omosessualità non è una malattia. Poi lo vediamo un attimo l'intervento finale che ha fatto Maroni. Sono finite quindi nel cestino le 700 mail di protesta che la società Expo aveva ricevuto e l'intimazione sulla rimozione del logo. E così si è coronato l'ennesimo inciuccio italiano, che passa dalla polemica allo sdegno e le grandi battaglie sbandierate all'accordo che entrambe le parti sanno essere falso fin dall'inizio. Comunque, i media hanno polemizzato sull'utilizzo del logo, ma nessuna parola sul patrocinio della Regione, dato per scontato, visto che è retta dai nuovi ed ennesimi difensori della famiglia naturale. La Lega ex Veneta ex Lombarda, e ora solo Lega, visto che tenta di sbarcare anche al sud. Ma io voglio parlarvi di questo convegno non perché sono incazzata, anche se in realtà lo sono, perché sentirsi chiamare pilla e culattoni da Maroni e La Russa non è proprio la mia primaria ambizione. La Russa ovviamente partecipava al convegno e quando un gay infiltrato ha tentato di prendere la parola gli ha gridato dagli spalti «piantala culattone!». Maroni invece ha concluso il convegno dicendo che tanti hanno tentato di impedirgli di farlo, ma lui mica si faceva fermare da quattro pirla. A parte che proprio quattro non eravamo nella manifestazione che si è tenuta durante il convegno, anzi eravamo migliaia, ma sentirsi dare della pirla da uno che sembra l'ottavo nano venuto male e culattone da un noto puttaniere che si permette di andare a un convegno sulla famiglia, sinceramente a me invece di farmi incazzare mi fa anche ridere. Quello che mi preoccupa di questo convegno è invece l'asse fascio cattolico che si sta creando ed il fatto che stiano muovendo tutti i poteri politici ed economici occulti contro di noi. I media hanno polemizzato anche sul contenuto del convegno, certo, riportando genericamente la partecipazione di un'associazione che sostiene le teorie riparative, ovvero le teorie che individuano l'omosessualità come una malattia dalla quale si può guarire. Proteste con gli stessi argomenti sono arrivate da associazioni gay e lesbiche di tutta Italia, ma in realtà la questione è molto più grave di quanto sembri. E in un panorama italiano che vede un'informazione superficiale e venduta e una controinformazione che riesce ad avere una visibilità estremamente limitata, solo la Gabanelli avrebbe potuto fare un lavoro serio di analisi e interpretazione del significato di questo convegno. Immodestamente, proviamoci un po' noi stasera. Partiamo dagli organizzatori. Alleanza Cattolica, Fondazione Tempi, Obiettivo Share e Nonni 2.0. Alleanza Cattolica non credo abbia bisogno di presentazioni. In sintesi, è un'associazione di laici cattolici che si propone lo studio e la diffusione della dottrina sociale della Chiesa, intesa come specificato dall'articolo 2 del loro statuto. Una cultura e una civiltà cristiane, nella prospettiva dell'instaurazione della regalità di Cristo anche sulle società umane. In poche parole, la restaurazione del potere temporale della Chiesa sullo Stato. Fantastico. C'è poi Fondazione Tempi, organo finanziario di Comunione e Liberazione, ovvero a Milano la vera mafia DOC, nel senso di denominazione ed origine controllata rispetto all''ndrangheta che di fatto è solo importata. E ancora l'associazione Nonni 2.0, ma si può. Il presidente è Pierluigi Ramorino, storico membro del Rotary Club Italia, ex manager in pensione e ovviamente nonno. Il 2.0 dovrebbe richiamare la modernità. Ma se citiamo testualmente il loro manifesto, abbiamo. Troppi non si rendono conto che dietro la facciata di una difesa contro la discriminazione di genere si nasconde in realtà un attacco alla vita e alla famiglia. Va avanti così per un po', fino a chiudere con i versetti 13-18 del Salmo 91 sui giusti, che sarebbero loro ovviamente, cosa che lascia presupporre che noi saremmo quelle e quelli sbagliati. Questi nonnetti 2.0 si sono fatti conoscere a giugno del 2014 con una lettera aperta a Renzi, il cui passo fondamentale è: sarebbe superfluo ripetere a lei che ogni rapporto relativo ad una coppia di qualsiasi genere può già oggi, senza ricorrere ad altre norme, essere regolato con l'applicazione delle leggi civili esistenti. Ogni altra ulteriore norma sarebbe di fatto un attacco alla famiglia, così come prevista dalla nostra Costituzione e come vissuta nella nostra storia. Io non so dove abbiano acquistato il compendio di diritto civile, ma sono certa che non fosse scritto in italiano. Infine, l'associazione per me Best of the Beasts, obiettivo share, che io pronuncio come l'omologa parola francese pulpito, perché non conosco l'aramaico giudaico antico, ma in realtà il vocabolo richiama l'apparizione dell'arcangelo Gabriele a Maria durante il sesto mese di gravidanza. Quando si presentò a lei, le disse semplicemente Cher Maria, ovvero gioisci Maria, che poi vorrei dire. Dopo mesi di condizione di ragazza madre in assoluta povertà, il parto in una capanna non riscaldata in pieno dicembre e la morte del figlio così giovane, io credo che qualsiasi donna si sarebbe domandata che cosa mai ci fosse da gioire. Comunque, obiettivo share, sul loro sito si presenta così. Da tempo, soprattutto dal 1968, è in corso una battaglia culturale che riguarda la persona umana e in particolare la sua identità sessuale. Per aiutare a comprendere la portata del fenomeno, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato una lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo. Lo scopo è quello di ribadire l'esistenza di una natura data dal creatore e quindi di un genere maschile e di uno femminile, che non sono costruzioni culturali prodotte dagli uomini nel corso della storia. La cosa che fa ridere è il richiamo al 1968, ma tutto il resto è davvero troppo triste per commentarlo. E nella sezione informazioni ribadisce: siamo un'associazione cattolica che non si occupa di psicoterapia, ma di accompagnamento pastorale, con particolare attenzione alle ferite della sfera identitaria e sessuale, compresa l'omosessualità. La parola che colpisce è ferite, ma ricordate bene l'affermazione non si occupa di psicoterapia, ci serve dopo. Quello che mi fa ritenere che dietro a tutto questo folklore e a questa ignoranza ci sia ben altro è l'andare a scavare un po' meglio in questa associazione, a cominciare dalla presidente, tale Jennifer Basso Ricci, perché a Milano se hai solo un cognome non sei nessuno. Allora, Jennifer è una giovane avvocata milanese specializzata in delitti contro il patrimonio. Cosa c'entra lei in tutto questo? Non è dato saperlo, ma cercando bene si scopre che come unico atto pubblico noto c'è la pubblicazione come coautrice di un libro che si chiama ABC per capire l'omosessualità. Immagino che gli strumenti per capirla meglio di noi le siano stati dati dai suoi studi giuridici, ma la cosa preoccupante è che il libro si presenta come scritto da una equipe multidisciplinare formata da professionisti del campo psicologico, medico, filosofico, pedagogico e da sacerdoti. Ma in realtà, Oltre alla nostra avvocata Jennifer, o avvocatessa come lei preferirebbe che la chiamassi, gli attori sono una infettivologa, un dipendente di Radio Maria, un biblista e un altro avvocato ma matrimonialista. Quindi, per capire l'omosessualità ci si deve muovere tra infezioni, salmi radiofonici, Bibbie e matrimoni falliti. E qui mi scappa proprio una parolaccia. L'editore ovviamente è le Edizioni Paoline, ma almeno controllare i curriculum degli autori. Allora davvero non c'è più religione. L'unica consolazione è che qualcuno deve aver capito il vero valore di questo libro e quindi costerebbe 2,50 euro, ma è già scontato al 25%, per cui per 2,12 euro vi portate a casa il Verbo. Insomma, io qui cerco di alleggerire qualcosa di tremendo, ma la situazione è davvero bruttina. Vi invito a leggere da sole sul loro sito, il sito di Obiettivo Share, il capitolo che dedicano al femminismo, ma non posso evitare di darvi qualche piccola informazione su quanto hanno pubblicato alla voce lesbismo. Ebbene, qui si sono completamente affidati alla traduzione di un articolo pubblicato da Janelle Holman sul sito di Jonah, ovvero Jews Offering New Alternative for Healing, in italiano gli ebrei che offrono nuove alternative per la guarigione. Sul loro sito si definiscono così: Jonah è un'associazione internazionale non profit dedicata all'educazione della comunità ebrea mondiale in merito ai fattori sociali, culturali ed emotivi che conducono all'omosessualità. Jonah lavora con coloro che lottano contro una non voluta attrazione per lo stesso sesso e con le famiglie i cui cari sono coinvolti con l'omosessualità. Bellino, vero? Soprattutto è uno spunto di riflessione, proprio in questi giorni, per le ortodossie di tutto il mondo, cattoliche, musulmane o ebraiche che siano. Tornando alla nostra Janelle Holman, che ha scritto quanto pubblicato da Jonah e poi tradotto da Obiettivo Share, iniziamo col dire che è una terapeuta americana che ha un proprio studio a Denver, in Colorado. La cosa stupefacente, proprio nel senso di assunzione di droghe allucinogene, è che in realtà, dopo aver studiato economia, lavorava tranquillamente per uno studio legale come assistente, ma in tarda età diventa una counselor, che, attenzione, non significa psicologa o psichiatra, ma una persona che ha frequentato dei corsi per il counseling, che peraltro stanno diventando molto di moda anche in Italia. Alcune delle mie amiche psicologhe affermano che spesso i e le counselor vanno al di là dell'obiettivo di sostegno circoscritto per il quale vengono formati ed esercitano abusivamente la professione di terapeuti e senza averne i titoli o i percorsi di studio e la specializzazione adeguata. In ogni modo, perché all'improvviso la nostra Janelle decide di cambiare repentinamente professione? Ebbene, all'improvviso due donne della sua cerchia di amiche si dichiarano lesbiche e lei ne rimane sconvolta e quindi, cito testualmente dal suo sito, dopo aver partecipato a diversi gruppi di supporto e aver avvertito in me una bruciante passione che mi spingeva ad amare questi gay e queste lesbiche, voi direte, ho fatto il coming out, e invece no, ho deciso di aiutare queste persone e di aiutare la Chiesa a capire le loro sofferenze. Eh no, ma che diavolo, ma lasciaci in pace che nemmeno siamo cattoliche, per cui le buone samaritane ci fanno venire l'orticaria. Niente, Janelle è andata proprio in fissa e quindi prende il suo master in counseling invece di seguire un altro suo desiderio, descritto nel suo sito come la volontà di fare un corso per diventare predicatrice o pastore. Ovviamente parliamo della Chiesa evangelica, perché con i cattolici l'opzione predicatrice non l'avrebbe nemmeno avuta. Ma che peccato però, io a fare la predicatrice la vedevo proprio bene, invece no, ha voluto scrivere un libro tutto dedicato a noi, sì, proprio a noi lesbiche, The Heart of Female Same-Sex Attraction, ovvero il fulcro dell'attrazione delle donne per lo stesso sesso. Se dopo anni di incauto lesbismo finalmente volete conoscere questo fulcro, vi avviso che se non conoscete il polacco, lo spagnolo o l'inglese, dovete aspettare ancora. Non esiste infatti la traduzione in italiano, ma posso tentare di sopperire raccontandovi un paio di cosette dalla scheda di presentazione del libro e dall'altro materiale che ho trovato. La prima cosetta, diciamo, è immediata. L'espressione usata per le lesbiche è precisamente «women who struggle with SSA», ovvero «donne che lottano contro l'attrazione per il proprio sesso», visto che SSA significa «same sex attraction». Sì, SSA, una sigla, proprio il modo in cui gli anglosassoni indicano le malattie. EVD per Ebola, DS per sclerosi a placche, AD per Alzheimer e SSE per lesbismo. La seconda cosetta è che, nel caso voi vi steste preoccupando, il suo libro è stato approvato direttamente da Dio, con il quale infatti ha avuto un dialogo diretto, nel momento in cui ha avuto paura che le sue teorie fossero errate. Dio infatti le ha detto, e vi giuro che sto traducendo direttamente dal suo sito, «Janelle, questo non è il tuo, ma il mio libro. Fin dal primo giorno io sono colui che ti ha dato il fardello, la visione e il cuore di queste donne. Io sono colui che ti ha dato la saggezza, la mia saggezza, per costruire le tue teorie». Ragazze, sembra fantascienza, invece no. Queste cose le trovate in rete e purtroppo a disposizione di tutti e tutte. Ma questo era solo per farvi capire con chi abbiamo a che fare. Today is my birthday, stay outside the hole. Inside sit the butterflies for the butterfly bowl. All the boys are graded now, they come in their white socks, flat tops, and somehow they find a place. All the boys are winning now, they play all the tricks with smiles and a sorry past for poor cow. Their own room and winter trees never touched these girls before. They hear the car stereo and they know what life is for. All the boys are weary now, listen to the family sing song. Family say so, must carve, poor cow. Slice her up, slice her up, slice her up, poor cow. Slice her up, slice her up, slice her up, poor cow. Yep. Today is my birthday, stay outside the hole. Inside sit the butterflies for the butterfly bowl. Torniamo da dove siamo partite, ovvero al nostro convegno milanese Difendere la famiglia per difendere la comunità del 17 gennaio 2015. Torniamo all'associazione Obiettivo Share, organizzatrice tra le altre del convegno, e a cosa scrive la Holman sul sito di Jonah, l'associazione che vuole curare gli omosessuali ebrei, poi tradotto alla voce lesbismo del suo sito dall'associazione Obiettivo Share, l'associazione che invece vuole curare gli omosessuali italiani. Tutti. In primo luogo, l'articolo della Holman parte da una tesi non pubblicata di tale Cheryl Brickner Camallieri, che ha usato uno strumento chiamato Measures of Psychosocial Development, misure di sviluppo psicosociale, per valutare le differenze evolutive fra 54 dichiarate eterosessuali e 54 dichiarate omosessuali. L'MPD misura la risoluzione evolutiva basata sul modello di sviluppo psicosociale di Erik Erikson, un tedesco naturalizzato statunitense ed ex insegnante d'arte, che ebbe una costruzione di identità complicata sia per questioni familiari che sociali. Ovviamente, a partire da questo patentino di complessità personale, ha deciso di diventare psicologo e psicoanalista, dopo essere stato allievo niente poco di meno di Anna Freud. Ma quali risultati arriva lo studio della Camalleri? Sembra che le donne eterosessuali abbiano ottenuto punteggi significativamente più alti sulle scale positive della fiducia, intimità e generatività, mentre le donne lesbiche, ricordiamolo, parliamo di 54 donne lesbiche, hanno ottenuto punteggi significativamente più elevati sulle scale negative dell'identità confusa, della stagnazione e della risoluzione negativa totale. Ora, senza annoiarvi con un trattato di statistica, è evidente quanto il campione sia visibile e quanto sia necessario analizzare la scelta del campione stesso per misurare l'attendibilità dei risultati. Ma la cosa più incredibile è basare considerazioni che hanno conseguenze così gravi sulla vita di esseri umani, nella fattispecie le donne lesbiche, su uno studio eseguito presumibilmente 45 anni fa da una laureanda per una tesi che non ha mai avuto nemmeno la dignità della pubblicazione. La Camalleri ha ora infatti 70 anni ed esercita privatamente in un piccolo sobborgo di Denver che si chiama Littleton. Non mi sembra quindi che abbia avuto una gran carriera professionale e non risulta alcuna pubblicazione a suo nome. Peraltro, al giorno d'oggi, un accettabile grado di credibilità di uno studio può essere misurato dalla sua rilevanza digitale, ovvero da quanto viene richiamato da altri studi, siti, blog o forum specialistici. Ebbene, provate a fare una ricerca a Google e vedete che la Camalleri viene richiamata da pochissimi siti in tutto il mondo, tutti all'ispirazione religiosa, e sempre a partire dallo stesso testo della Holman. Ma appunto, cosa deduce la Holman dai presunti risultati della famosissima Camalleri? Cito testualmente quanto esprime nel paragrafo dal titolo emblematico Tratti e disordini della personalità. Depressa, vuota, demoralizzata, pessimista, indegna, piena di disprezzo di sé, dipendente, bisognosa fino alla disperazione, ma timorosa del rifiuto, frustrata, negativa, tendente all'autocommiserazione, ostile, sulla difensiva, isolata. Questa lista descrive con precisione le caratteristiche predominanti della donna lesbica media. Scusate la facile battuta, ma io più che indegna mi sento indignata. Ma si può, una quasi predicatrice che ha studiato economia ma esercita psicoterapia con un master in counseling e interpreta i risultati di una tesi non pubblicata di una sconosciuta terapeuta di un sobborgo di Denver. Insisto, l'umanità è varia e spesso malata, ma queste infame sono a disposizione di tutti e tutte su internet e la regione Lombardia invita questa associazione di frustrati a parlare in una città come Milano. Questi che basano la loro spiegazione scientifica delle loro teorie riparative sugli omosessuali sul nulla. Va bene, calmiamoci. Per la Holman siamo delle merde. Ma dove vuole andare a parare? Passiamo al paragrafo successivo, intitolato Un'efficace terapia per la cliente lesbica. La donna deve entrare in se stessa. Questo processo implicherà, tra l'altro, un approfondito lavoro nell'identificare, sfidare e ristrutturare il sistema di valori della donna nei riguardi del mondo, di Dio, degli altri e di se stessa. Il lesbismo è sostenuto da un sistema di idee distorte e negative. Questo sistema deve essere riedificato. Le manovre difensive della cliente e il suo insano attaccamento verso le donne devono essere affrontati mentre la donna viene sfidata a correre il rischio di nuove e più sane relazioni. In conclusione, poiché la guarigione della donna lesbica richiede, per così dire, l'edificazione della sua casa, credo che la componente più efficace della terapia sia la qualità dell'attaccamento e della relazione terapeutica che si forma tra la terapeuta donna e la cliente. In sostanza, io fornisco la casa nella quale lei può restare e divenire. Senti, Janelle, facciamo che io questa casa te la brucio e poiché sono pacifista nell'anima, prima ti do la possibilità di scappare, ma solo dopo una bella pizza in piena faccia. Aspettate che mi ricompongo. Allora, convegno a Milano il 17 gennaio dal titolo quasi innocuo «Difendere la famiglia per difendere la comunità», organizzato da Le Mafie Interconnesse DOC Milanesi, Azione Cattolica e Fondazione Tempi, braccio finanziario di Comunione e Liberazione, Nonni 2.0, che invece di andare con i nipotini nei giardinetti, scrivono a Renzi contro i matrimoni gay, infine Obiettivo Share, che propaganda senza alcun fondamento scientifico le teorie riparative per gay e lesbiche. Sembra di aver toccato il fondo, e invece no. Chi sono gli invitati al convegno? Chi erano? Costanza Mariano, Mario Adinolfi, padre Maurizio Botta e Marco Scicchitano. È stato un po' complesso capire chi sono, ma a questo punto mi ero davvero intignata. Cominciamo dalla femminuccia. Costanza Mariano, cattolica e madre di 4 figli. Non è colpa mia, si presenta proprio così lei nel suo sito. Ex giornalista di Rai 3, e che cazzo, almeno Rai 3, ora Radio Vaticano. Ah, meno male, mi stavo preoccupando. Ma soprattutto autrice del libro Sposati e sii sottomessa. Guardate che non è uno scherzo, il libro si chiama proprio così. Alcune frasi sono illuminanti, ve le leggo. L'uomo deve incarnare la guida, la regola, l'autorevolezza. La donna deve uscire dalla logica dell'emancipazione e riabbracciare con gioia il ruolo dell'accoglienza e del servizio. Oppure, a me l'uomo che ha opinioni rocciose e mena fendenti coraggiosi piace moltissimo. E ancora, troppe donne sono in lotta con i mariti, i compagni e diventano insopportabili solo perché non hanno capito il segreto dell'accoglienza e poi della sottomissione, dell'obbedienza come atto di generosità. Ma una dice, chi gli ha pubblicato questo libro? La Sonzogno, che sul sito si presenta così, una delle più antiche case editrici italiane, ha un'anima popolare di qualità rivolta prevalentemente a un pubblico femminile. Ora, sul popolare possiamo discutere, ma sulla qualità andate sul sito a vedere le sue pubblicazioni. I titoli sono Le fedeltà, Un amore sbagliato, L'amante inglese di Sissi. Ma dai! Il problema è che la pubblicazione di questo libro nel 2011 è passata nel silenzio del femminismo italiano. Mentre, pubblicato nel 2013 in Spagna dalla casa editrice dell'arcivescovato di Granada, avamposto dell'integralismo cattolico più retrivo, sempre in prima linea nell'offensiva contro le conquiste sociali delle donne, ha scatenato polemiche accese tra le parlamentari spagnole, che hanno portato perfino il Partito Popular, braccio politico dell'Opus Dei, a chiedere tramite la ministra della Sanità, Anna Amato, il ritiro del volume delle librerie. Queste spagnole però, ma allora non era solo Zapatero a essere illuminato. Ma continuiamo con gli ospiti del nostro convegno. Adinolfi lo lascio per ultimo, chi lo conosce mi capirà. Siccome a Milano forse non erano riusciti a trovare un prete così coglione, l'abbiamo fatto venire da Roma. Padre Maurizio Botta, conosciuto per i suoi seminari dei 5 passi, così denominati. Il deserto, la consolazione, la sete, la notte, la morte. 5° e ultimo passo, ovviamente. Alzate le mani e smettete di fare gli scongiuri perché vi vedo. Non aggiungo altro, e più che camminando, correndo, me la filo e passo ad un altro luminare, sempre venuto da Roma. Marco Scicchitano, giovane psicoterapeuta e coautore del libro Educare al femminile e al maschile. Edito da chi? Ma dalle Edizioni Paoline, ovviamente. In pratica, la tesi del libro è la diffusione delle scuole omogenee, basate sulla separazione dei sessi. Beh, diciamolo, a noi separatiste non farebbe nemmeno schifo, ma in realtà, mentre nel mondo anglosassone il metodo è basato su ben altri presupposti di valorizzazione delle differenze di genere, In Italia l'educazione omogenea è diventata un monopolio dell'associazione FAES, ovvero Famiglia e Scuola, che si ispira alle intuizioni educative di San José María Escrivá, fondatore dell'Opus Dei. Chiaro il concetto? Immagino quali illuminanti e moderne intuizioni abbia avuto un Escrivá, morto nel 1975. Fantastico, vero? Ma il nostro Scicchitano deve essere proprio un luminare, nonostante la giovane età. È costantemente interpellato in diverse seguitissime trasmissioni della seguitissima emittente televisiva supercattolica TV2000. Ma attenzione, questo lavora anche sul campo, proprio da voi a Roma, perché è ricercatore clinico presso l'Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale di Roma, di cui chi è presidente? Il dottor Tonino Cantelmi, anche presidente dell'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, ovviamente. Caspita, fatemi uscire da questo ambiente di chiesa, altrimenti divento davvero matta. E allora eccomi arrivata all'ultimo ospite del convegno, Mario Adinolfi, ex deputato e tra i fondatori del PD. D'accordo che il PD non è un partito di sinistra, ma questo Adinolfi davvero ne è la feccia. Magari tanti di voi lo conoscono per alcune delle sue uscite più riuscite, come dare del frocetto a signorini o aver detto in un tweet inerente agli abitanti del territorio campano della Terra dei Fuochi: si sono fatti devastare tacendo della camorra, che ha interrato per anni rifiuti tossici, ora fanno le manifestazioni, che popolo di merda. Minchia, fatemi fare subito un'iniezione di Saviano, altrimenti vado in shock anafilattico. Questa aperta affermazione di ignoranza, a me, napoletana e con una sorella che abita in piena Terra dei Fuochi, ovviamente proprio non la doveva fare. Ma di merda ci sarai tu, brutto evasore fiscale dei miei maroni, Roberto ovviamente. Eh sì, perché il nostro amichetto, che si guadagna da vivere come giocatore professionista di poker... E di nuovo pensate che sto scherzando? No, questo è il curriculum dei nostri deputati o ex che siano. Dicevo, l'hanno beccato nello scandalo del cosiddetto Madoff dei Parioli. Madoff è un criminale statunitense accusato di una delle più grandi frodi finanziarie di tutti i tempi. Gianfranco Lande è invece il Madoff dei Parioli, un romano, uno che ha fregato milioni di euro a nomi prestigiosi del jet set e della politica romana, con la scusa di farli evadere dallo scudo fiscale. Il nostro Adinolfi l'hanno beccato a versare a Lande 338.000 euro, ma lui purtroppo non si è fatto fregare da Landi e ne ha ritirati ben 363.000. Almeno la soddisfazione che se lo inculavano, ma Adinolfi si difende, non è vero, dice. A metà degli anni Ottanta io ho versato nei fondi di Lande solo 50 milioni di lire e ne ho ritirati 70, perché io sono uno che non si fa fregare. Ma vi rendete conto? Nessuna rivendicazione di rispetto della legalità, ma solo affermazione di macismo. Ma cosa fa oggi Adinolfi? E perché l'hanno invitato a questo illuminante convegno? In primo luogo ha scritto un libro. Sì, pure lui ha scritto un libro. Il titolo è «Voglio la mamma». E l'ha scritto per contestare quelli che chiama i falsi miti di progresso, da lui individuati in aborto, eutanasia, matrimonio omosessuale e utero in affitto. Ma non gli è bastato. Ha proprio fondato un movimento e organizza incontri VLM, Voglio la mamma, in tutta Italia. Non ci bastava Grillo con i vaffanculo dei. Non finisce nemmeno qui. È neofondatore del quotidiano online La Croce, che è anche in edicola da gennaio di quest'anno. Un quotidiano che si proclama a difesa della cultura della vita e della gratuità dell'amore familiare, contro i matrimoni omosessuali e che titola, uno degli articoli, «L'aborto si può combattere». Ma io dico, perché non vai a farti una partitina a poker? Perdi pure i calzini che indossi e non ci lasci in pace. A me poi fanno ridere questi difensori delle famiglie. Peggio del nostro amico Casini, questo Adinolfi, è divorziato e risposato. I difensori della famiglia, capite? Peraltro, i quattro ospiti, Miriano, Padre Botta, Cicchitano e Adinurfi sono decisivi, perché vanno in giro ormai da un po' in tutta Italia ad organizzare eventi dal titolo Contro i falsi miti del progresso. E abbiamo appena visto che per miti loro intendono dei diritti conquistati o ancora agognati con fatica e dolore da noi tutte. Si autodefiniscono i quattro moschettieri. Vi assicuro che anche questa non è una battuta. D'altro canto, parlano con odio, predicano oscurantismo e quindi non potevano non identificarsi con degli spadaccini del 1600. Ma un tale accanimento contro i gay e le lesbiche a me fa sempre riflettere. È come se io, lesbica che vivo a Milano, scrivessi un libro e, che ne so, mi accanissi contro il movimento di liberazione degli aborigeni in Australia. Eh no. Fermi un attimo. È proprio questo il punto. Queste associazioni, questi spregevoli individui, stanno creando una rete e si appoggiano al potere economico più forte al mondo, ovvero alla Chiesa. E non basterà un Papa, se mai ne avesse davvero voglia, a cambiare Azione Cattolica, Opus Dei, Comunione e Liberazione. Sono poteri forti e occulti, di cui c'è solo da avere paura. Hanno siti internet, blog, pubblicano libri e riviste online e cartacee. Una piovra informativa battente e pericolosa, le cui connessioni sono difficili da trovare. E noi? Noi cosa stiamo facendo? Agiamo in maniera sincrona e decisa, come loro sono capaci di fare? Stiamo creando un potere economico che ci dia la forza di combattere? No, noi no. Noi polemizziamo sul convegno perché è il logo dell'Expo. Nemmeno quello dell'Expo fosse un certificato di qualità e non il simbolo di un sistema di tangenti che sta rendendo ridicola l'Italia in tutto il mondo. Stiamo attente, ragazze, che qui si stanno organizzando, seriamente. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never.